Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci di nuovo insieme per parlare di basket, per raccontarvi di questa settima giornata di ritorno che, insomma, di sorprese finora già ne ha regalate e parecchie, in attesa poi dei due posticipi di domani sera tra Montepaschi Siena e Acea Roma e Oknoplast Bologna e Juve Caserta. Ebbene, una delle notizie di giornata è la sconfitta di Sassari ad Avellino per 86-78 e quindi coppia di testa che si scioglie, visto che Varese batte Biella per 92-82. E poi soprattutto anche importante la vittoria in trasferta di Milano a Venezia per 88-97 dopo un supplementare. Allora direi che prima di dirvi tutti gli altri risultati andrei proprio a Venezia dal nostro Roberto Nardella con Sergio Scariolo. Ben trovato Roberto. E allora buonasera qui dal Taliercio di Venezia, siamo in compagnia di coach Sergio Scariolo. Una gara vinta da Milano, rivinta da Milano dopo che praticamente sembrava che l'Olimpia ci fosse riuscita a vincerla alla fine dei tempi regolamentari, canestro incredibile delle 77 pare di Rosselli, overtime break di Milano che poi è riuscita a portare a casa questa partita importantissima, senza dimenticare che è riuscita anche a ribaltare dopo confronto. Ma senz'altro un fatto positivo sia il fatto di aver condotto praticamente per tutta la partita contro un'avversaria capace di battere Siena, Varese, Cantù, eccetera, sia anche di aver superato la doccia fredda di questo tiro da tre che ha pareggiato l'ultimo secondo, ripartendo nel supplementare con personalità. Non c'è dubbio che negli ultimi minuti del quarto quarto abbiamo avuto un calo di lucidità che non deve ripetersi, affrettando i tiri a tre punti, non utilizzando bene i falli che avevamo da spendere e proprio non facendo un fallo sull'ultima azione. Però, ripeto, la reazione è stata buona anche dopo che avanti di 10-12 all'inizio del terzo quarto, di più per colpa mia che ho preteso di tenere in campo magari Borussis quando gli avversari siano schierati con 5 giocatori esterni, proprio Šečić giocando nel ruolo di 5 con 3 bombe di fila li ha riportati in parità di due mettendosi avanti per qualche minuto. Quindi continuiamo a dover migliorare, anche se continuiamo a dover a ricevere positivamente messaggi confortanti di crescita. Ecco Sergio, un discorso a cui mi vado a rilasciare era quello che avevi fatto tu in conferenza stampa nel post Siena e quello che stai poi dicendo adesso, il fatto che Milano debba comunque ancora crescere, anche se poi adesso ai playoff manca non pochissimo, ma comunque siamo in avvicinamento velocemente verso la parte saliente del campionato. Sì, senz'altro, soprattutto a livello di capacità di concentrazione, soprattutto a livello di tenuta e di intensità difensiva nel corso di tutti i 40 minuti, a rimbalzo ci sono sicuramente molti aspetti su quali dobbiamo migliorare. Peraltro, nell'altra faccia della medaglia, e giochiamo sicuramente più insieme, più di squadra in attacco, abbiamo trovato un discreto equilibrio in certe strutture di quintetti, cambiando un pochino il quintetto d'inizio, eccetera. Insomma, sono sicuramente dati positivi, ma ripeto anche margini di miglioramento. E allora ringraziamo coach Sergio Scariolo, ringraziamo anche qui dal Taliercio. Se non ci sono altre domande, io ridarei la linea allo studio. Perfetto, perfetto Roberto Nardella, partiamo alla grande con la testimonianza di uno dei protagonisti di giornata. Allora torniamo ai risultati, dicevamo Scavolini, Banca Marche, Pesaro batte Enel Brindisi 94-90, successo importante per i biancorossi in zona salvezza. Milano che sbanca Venezia come abbiamo appena raccontato 97-88 dopo un supplementare, 92-82 per la Cimberio Varese che torna capolista solitario sull'Angelico Biella, e poi il colpo di Avellino, Sidigas che batte l'altra capolista fino a pochi istanti fa, il Banco di Sardegna Sassari 86-78, e la Trenkwalder Reggio Emilia che continua la sua corsa superando la Sutor Montegranaro 100-83. In campo Vanoli Cremona e Pallacanestro Cantù che si stanno avvicinando alla fine del primo tempo con i canturini avanti in trasferta appunto 49-37. Domani sera Montepaschi Siena c'è a Roma e Oknoplast Bologna Juve Caserta. Andiamo subito ad Avellino, Irpini protagonisti che stanno tornando alla grande e che battono Sassari appunto. Ben trovato Carmelo Prestisimone. Eccoci qui, Dario, ben trovati. Dopo Cantù, Avellino manda al tappeto la prima in classifica, Sassari 86 a 78 per i campani, che vincono con la regia eccellente di Jaka Lakovic, che si conferma un giocatore straordinario anche a 35 anni, 12 punti, 2 su 3 da 2, 2 su 3 da 3, ma ben 9 assist dei 17 totali, ben 40 punti arrivano dalla panchina, 12 punti Brown, 14 Dragovic e un Jimmy Lee Hunter chirurgico con due bombe che hanno spaccato la partita sul 61 a 43 nel terzo periodo, anche se poi i sardi sono riusciti ad accostarsi. Doppia doppia per Ivanov, 17 punti e ben 10 rimbalzi. Sassari in tilt, ha pagato un Isley sottotono e un Diner dignitosi ma non decisivi. Merito della Sidigas e di Cesare Pancotto, il coach redentore, ecco, di questa squadra che ha cambiato lo spirito e la faccia dei suoi giocatori. Oggi ad Avellino si comunica, si parla di pallacanestro. Ma partiamo dal presupposto che stiamo lavorando in modo eccellente e che solo il lavoro ci può permettere questo tipo di partite. Oggi era una partita di mentalità, perché affrontavamo la prima in classifica, ma la prima in tutto nei numeri. Una partita del coraggio, perché dovevamo pensare al campo e non quello che è successo fuori dal campo, nel senso dei primi posti contro il nostro che è ultimo, e c'è stato un atteggiamento, un'intensità sulla partita, una grande personalità, ci ha permesso prima di prendere il vantaggio grazie alla grande difesa e agli equilibri e ai passaggi che ci siamo fatti, 17 assist lo dimostrano. Poi quando Sassari, da grande squadra a cui faccio i complimenti, è ritornata alla pari, abbiamo saputo costruire con due difese e tenere in balzo in attacco la nostra vittoria, sempre però nel segno della continuità degli obiettivi che ci eravamo posti. Soprattutto, coach, è sparita la paura ed è tornata la serenità per i suoi giocatori. Prima hai detto che si parla di basket, ecco, prima si parlava di problemi, oggi si parla di basket, e questo naturalmente ci fa concentrare sulle nostre cose che dobbiamo fare durante la settimana. È un lavoro che è partito un mese fa, un mese e mezzo fa, è un lavoro che sta dando dei frutti, ma è un lavoro che mi sono invitato, ho detto ai miei giocatori, ho detto in sala stampa, ribadisco, non ci dobbiamo togliere l'elmetto, cioè l'elmetto deve essere conficcato proprio nella nostra testa per andare avanti. È una squadra operaia, insomma. Avellino, Dario, se hai domande, noi siamo qui. Cesare Pancotto ti ascolta. Ma io darei un attimo di tregua al coach, sentiamo la voce provatissima e 20 secondi proprio solamente per i complimenti, per tutti i motivi che ha elencato proprio il nostro bravissimo Carmelo Prestisimone. Complimenti a Cesare Pancotto. Grazie a voi, grazie. Complimenti. E allora andiamo dal nostro Stefano Valenti, che ritroviamo perché per raccontarci questo successo di Reggio Emilia su Monte Granaro. Stefano. Sì, ciao, buonasera. Beh, il risultato alla fine è stato netto a vantaggio di Reggio Emilia, ma non deve trarre in inganno, perché comunque a 4 minuti dalla fine Monte Granaro era ancora a meno 7 con una schiacciata di Johnson e insomma ha provato fino in fondo a rendere difficile la vita a Reggio Emilia. Poi una squadra corta, appena abbandonata dal suo playmaker titolare Steele, con Slay non in buone condizioni, e a quel punto Reggio Emilia ha dilagato grazie alla prima grande partita di Troy Bell, una delle addizioni più interessanti del mercato, diciamo, di riparazioni. In realtà è un ritorno. Bell oggi ha segnato 26 punti in 23 minuti, quindi una partita molto importante, perché con questo risultato Reggio Emilia allunga in ottica playoff su Brindisi, sconfitta a Pesaro, e dunque era già stata una bella sorpresa trovare la finaletta di Coppa Italia. A questo punto è perfettamente in rotta per confermarsi anche per i playoff. Direi che hai pienamente ragione e hai anticipato la domanda che stavo per farti, Stefano. Intanto ti ringrazio. E allora guardiamo rapidamente il tabellino di Varese, che torna capolista battendo per 92-82 Biella. Tornano le bocche da fuoco, Adrian Banks 23 punti, E EBR con 25, 4 su 8 da 3 punti per ERE e un 27 di valutazione. Si prende una serata di riposo tutto sommato Mike Green con 5 punti in 31 minuti. Per quanto riguarda il tabellino di Biella, 28 punti per l'ottimo Pinckney, 10 su 12 da 2, 1 su 5 da 3, 10 rimbalzi per 32 di valutazione, 23 per Trey Johnson con 9 su 14 da 2, 1 su 2 da 3, un 19 di valutazione. C'è intanto raggiunto coach Luca Becchi, che domani farà il suo esordio sulla panchina della Virtus Bologna. Palla Spicchi. Eccoci qua ancora insieme con Palla Spicchi. Andiamo a vedere anche il tabellino di Pesaro. Pesaro che batte Brindisi, e direi che l'avevamo detto domenica scorsa che c'è l'orgoglio dei pesaresi nella lotta salvezza, e arrivano anche i due punti, 94-90 per Pesaro su Lenel Brindisi, 24 punti per Daniele Cavaliero con 2 su 4 da 2, 5 su 6 da 3 punti, 5 su 6 ai liberi per un 22 di valutazione, 22 in 36 minuti per Rok Stipcevic, che mette a segno la solita performance nelle triple, stavolta è 5 su 11, e anche Antoine Barbour non scherza, perché i suoi 16 punti arrivano con un 2 su 3 da 2 punti, ma anche con un 4 su 6 nelle triple per una Pesaro che chiude con un 17 su 32 e quindi con un 53% proprio dall'arco. Non è da meno Brindisi, perché Brindisi chiude con un 50%, 9 su 18, ma non bastano questa volta gli uomini di Bucchi, 17 punti di Antoine Robinson, che aggiunge anche 10 rimbalzi, 14 di Ndoja uscendo dalla panchina, i 16 di Gibson, i 13 di Reynolds, i 10 più 7 rimbalzi di Cedric Simmons. Ben trovato Carlo Genta. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora, ricordiamo tutti, domani ore 14 tutti convocati da Carlo Genta. Assolutamente, saremo tutti presenti, intanto anche per ragionare di una giornata in cui è scoppiata la coppia di testa, no? Mentre Varese riprende il suo passo liquidando Biella, Sassari inciampa su una Avellino che sembra rinata da quando è iniziata la cura Pancotto. Sì, da quando è iniziata la cura Pancotto, da quando è arrivato Jakalakovic. Insomma, Avellino è un'altra squadra rispetto a prima, una squadra molto ondivaga che però può mettere in difficoltà chiunque. È scoppiata la coppia di testa, rimangono comunque le due squadre che tendenzialmente tengono la griglia dei playoff in mano, anche se domenica scorsa insomma abbiamo avuto Milano-Siena, Milano sul 2-0 con Siena, però dei punti da recuperare. Io credo che alla fine si arriverà lì, anche se spero che comunque Varese e Sassari, non mi interessa in quale ordine, possono arrivare prime e seconde, quindi tenere il fattore campo, perché sarebbe la cosa più interessante del playoff intero in questa stagione, che alla fine apparentemente padroni non ne ha. Carlo, parecchio interessante domani anche l'esordio sulla panchina di Bologna di coach Luca Becchi, che ospita Caserta. Hai la possibilità di fargli una domanda, perché il coach è il nostro ospite. Ben trovato coach Becchi. Buonasera a tutti. Ecco la domanda di Carlo Genta. Coach, buonasera. Buonasera. Allora, Bologna partita benissimo, poi scivolata in una crisi senza fine. Come stai pensando di rimetterla in piedi? Perché Bologna comunque è una squadra che quart'ultima non ci sta. In effetti l'analisi è giusta. Abbiamo fatto, Bologna prima del mio arrivo ha fatto un discreto prima parte di campionato, la seconda parte, quindi dalla decima alla ventesima, ha avuto una flessione importante. Adesso c'è da ripartire. Io credo che spesso le cose facili e semplici, più che facili, sono quelle che aiutano i giocatori a trovare un po' di serenità, a ritrovare un po' di fiducia, di coesione, di unità di intenti. È normale che quando si perde ci sia un po' di sgretolamento all'interno del morale di ognuno, della fiducia in se stessi e poi dello spogliatoio, e quindi in questi pochi giorni ho cercato di ricucire un po' la loro autostima e di creare fra di loro un'empatia positiva in modo da trasferirla poi sul campo con il massimo dell'energia possibile. Coach, ritorna in Italia dopo l'esperienza in Ucraina col Mariupol. Che campionato ritrova, si aspetta di ritrovare? Un campionato equilibrato, sicuramente i valori sono molto equilibrati, si assiste ogni domenica a qualche risultato diciamo inaspettato. Varese e Sassari stanno giocando sicuramente la pallacanestro migliore. Devo dire che sono due squadre come Roma e Reggio Emilia che ho avuto modo di vedere stasera dal vivo in quanto nostra avversaria di domenica prossima, che giocano una pallacanestro divertente, brillante, a viso aperto. Quindi un campionato, poi ovviamente c'è sempre Siena, Milano e Cantù che non si daranno per vinti e anzi alla fine poi avranno l'esperienza giusta per contare. Sarà un playoff equilibrato certamente. Tra l'altro riparte da una brutta gatta da pelare, perché la Caserta di Pino Sacripanti per vari motivi è forse la vera formazione rivelazione di quest'anno, no coach? Ripeto, ce ne sono diverse, a mio parere sicuramente stanno facendo bene. Nelle ultime domeniche hanno avuto qualche battuta d'arresto, perdendo, anche se al di là del risultato, che è comunque importante nel nostro lavoro, la prestazione di Caserta nelle due partite soprattutto casalinghe che hanno perso è stata una buona prestazione. Una squadra solida, una squadra quadrata che gioca una pallacanestro molto diciamo bilanciata, possibilità di giocare con Kindele, che è un riferimento importante, ha degli esterni italiani che danno qualità, quindi per noi è un avversario molto tosto da affrontare fin da domani. Coach Becchi, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura, grazie, grazie anche a Carlo Genta. Allora Carlo, domani alle 14 siamo tutti convocati, eh? Domani alle 14 tutti convocati per parlare come sempre di tutto. Assolutamente, non solo dello scudetto del calcio, ma risentiremo magari anche le voci di alcuni dei protagonisti ospiti questa sera. Grazie Carlo, ben ritrovato a Flavio Tranquillo per il gran finale. Buonasera. Ciao Flavio, beh, con te voglio vedere un po', lo sai che mi viene voglia di parlare bene di Milano stasera, cosa che quest'anno abbiamo fatto tutto sommato raramente, perché il modo in cui ha vinto oggi a Venezia mi fa pensare bene, finalmente. Tu come l'hai vista? Ma non penso che possa essere una partita spartiacque, però di certo quando vieni raggiunto sull'ultima azione dei regolamentari e sai di aver fatto almeno un paio di errori gravi su quell'ultima azione, partire 9-0 nel supplementare significa avere dentro qualcosa, altrimenti non potrebbe succedere. Forse da quel punto di vista, da quel dentro, da quel qualcosa dentro, si può partire con passo più convinto. Domani c'è anche questo stuzzicante, abbiamo parlato con coach Becchi di Bologna-Caserta, ancora più stuzzicante questo Siena-Roma, perché Siena continua ad andare sulle montagne russe e in riferimento alla sconfitta col Kimchi in Eurolega non è certo casuale, no? Il Kimchi è una squadra veramente tosta, molto molto buona, veramente buona. Penso che più che la sconfitta sia il fatto che è arrivata di 7 punti avendo vinto di 6 all'andata, avendo occasioni di mettere a posto almeno il doppio confronto. Magari non servirà, ma se dovesse servire sicuramente un pensiero così un po' negativo per Siena. È una partita in cui io penso misuriamo Roma e capiamo se Roma si accontenta di essere la rivelazione cui vogliono tutti bene, oppure se ha idea di fare anche magari quel passetto in più o provare a fare quel passetto in più. Io la vedrei anche in questa maniera. Finora diciamo la squadra di Galvani non si è mai tirata indietro, nel senso che anche nelle partite che poi ha perso contro le big le ha sempre lottate. Ma guardando quel girone di Eurolega di Siena, credi che i playoff possano essere a rischio? Perché a me quell'Olympiacos, quel Maccabi che tornano su, quel Vitoria non lasciano per niente tranquillo. di certo questa è un'eventualità, però io penso che i playoff, ovvero sia una delle prime quattro posizioni, siano raggiungibili. È ovvio che tra secondo e quarto c'è differenza, al di là dell'accoppiamento. In una serie a 5 di Eurolega il fattore campo non è un'assicurazione, però è una cosa che speri sempre di avere. Questa sconfitta di Sassari di oggi quanto pesa, Flavio? No, non penso che pesi tantissimo. Avellino si è messa sostanzialmente a posto, e il livello giocatore per giocatore di Avellino è assolutamente rispettabile. Poi la stagione è così lunga e così particolare che prima o poi un po' di down c'è, più che mai se tu giochi su determinate armonie che sono abbastanza sottili, come il caso di Sassari. Vediamo poi, in realtà vedremo come queste squadre arriveranno ai playoff. Io penso che tutte, chi più chi meno, cercheranno di mettere un po' di benzina nel motore. Leggi un giocatore in aggiunta, anche non fosse altro che come polizza assicurativa. Eh sì, è il momento anche un po' di consolidare i roster e di fare il piano di energie, quindi vedremo ancora per 2-3 domeniche forse l'andamento delle big essere piuttosto oscillante. Tanto lo commentiamo insieme, quindi Flavio, sei compagno di viaggio abituale, e allora l'appuntamento è per domenica prossima, no? Molto volentieri. Grazie a Flavio Tranquillo. Uno sguardo alle Final Four Eurobet di Lega 2, la finale tra Pistoia e Trento. Siamo al 13esimo, 25-11, mentre alla fine del primo tempo di gioco 39-49 tra Cremona e Cantù. Tempo che sta per scadere, non rimane che quello che, per ringraziare Giorgio De Luca in redazione e Roberto Scaltritti in regia, io resto ancora qui a farvi un po' di compagnia e a raccontarvi anche, tra le altre cose, i posticipi della Serie A di calcio.